Se vuoi uscire una domenica al sole con me, mi porterò la 500 di papà, t'aspetterò col batticuore. E sai perché ti porterò? Con gli amici. No, no, no, no. A ballare. No, no, no, no. Sulla spiaggia. Ma soltanto per baciarti riva al mare. Mare. Mare. Mare. Di pure i tuoi che viene Elvira insieme a noi. Di lei si fidano di certo, ma non di me. Poi dopo un po' la scarichiamo. E sai perché ti porterò? Con gli amici. No, no, no, no. A ballare. No, no, no, no. Sulla spiaggia. Ma soltanto per baciarti in riva al mare. Mare. T'aspetterò col batticuore. E sai perché ti porterò? Con gli amici. No, no, no, no. A ballare. No, no, no, no. Sulla spiaggia. Ma soltanto per baciarti in riva al mare. Mare. Mare. Mare. Di pure i tuoi che viene Elvira insieme a noi. Di lei si fidano di certo, ma non di me. Poi dopo un po' la scarichiamo. E sai perché ti porterò? Con gli amici. No, no, no, no. A ballare. No, no, no, no. Sulla spiaggia. Ma soltanto per baciarti in riva al mare. Mare. Mare. Mare. Mare. Mare. Se vuoi uscire una domenica sola, sola mare, con me, sì mare, io porterò la 500 mare, quella rossa di papà, sì. No, Elvira, no, cosa ce ne facciamo? Non la vogliamo. Chi lo vuole? Niente, no, no, no, no. Andiamo al mare, soli, io e te.